So the Kurdish freedom movement, although today we talk about women's liberation, about ecology, about grassroots democracy, and people have seen the example of Rojava, which is the northern part of Syria, mostly inhabited by Kurdish people, but not only Kurdish people. Ora, venendo al movimento kurdo che riunisce come tre capitoli principali della sperimentazione che si sta svolgendo in Rojava, nel nord della Siria, della democrazia diffusa, dell'ecologia e della liberazione delle donne, questo progetto vuole integrare e confederare, mettere in rapporto politico le comunità e i gruppi esistenti sul territorio, ma non è sempre stato così. Inizialmente nella forma del marxismo-leninismo e come spesso è accaduto per le realtà uscite dal regime coloniale nel Novecento, la rivendicazione è stata quella della costituzione di uno Stato punto indipendente. E questa dimostrazione di quanto sia assimilata e quindi non visibile, non pensata, la connessione tra Stato, costituzione di uno Stato-nazione, e libertà. Però attraverso l'elaborazione politica è possibile vedere come lo Stato nel contemporaneo non sia sinonimo di autodeterminazione. La costituzione di uno Stato introduce come parte, come partecipanti nell'ordine delle relazioni internazionali, porta alla dipendenza da un sistema integrato, più o meno integrato, di economie nazionali. Quindi la realtà politica contemporanea ci dice che Stato non è equivalente di libertà, ma è equivalente di dipendenza. Certo, la costituzione di uno Stato curdo avrebbe portato a ridurre il grado di vulnerabilità rispetto a fenomeni come il genocidio, no? La persecuzione di cui sono oggetto i curdi, ma non avrebbe portato a un aumento della libertà. Il Partito Comunista Curdo dei Lavoratori risulta e classificato a livello internazionale come soggetto terrorista. Questo per il tipo di lotta che sta conducendo contro le persecuzioni esercitate dal governo turco. Il governo turco, che è un alleato, come starete leggendo nelle cronache politiche e dibattito politico di questi tempi, è un alleato decisivo per l'Unione Europea, è stato eletto come alleato decisivo soprattutto per la questione della gestione dei flussi migratori. Il governo turco è lo stesso soggetto che perseguita i curdi e fornisce un appoggio non ufficiale al Daesh, quindi questo sarebbe un altro capitolo interessante sotto cui analizzare i rapporti internazionali. So after a radical paradigm shift, the same movement began to think about the nature of power, the nature of hierarchy, about the idea of freedom, and also analyze fundamentally the state and its origins. Allora, nel passaggio di paradigma dalla richiesta dell'indipendenza di uno Stato-nazione indipendente curdo, si è cominciato a lavorare sulle idee di potere, di gerarchia, di libertà, e come vi ho raccontato a proposito delle origini dello Stato in Medio Oriente, si è vista la connessione tra questi tre punti, e effettivamente questa riflessione si è accompagnata sempre di più da un movimento di liberazione delle donne, da una presenza forte delle donne. E infatti meno si dava l'idea di uno Stato per regolare la vita politica, e più aumentava la partecipazione delle donne. Le alternative, che non sono facili né immediata realizzazione, portano dal capitalismo a una società ecologica, dal patriarcato a una presenza attiva e non soltanto passiva delle donne, dallo Stato all'idea di una democrazia radicale. Quindi c'è un'uscita da quei dualismi che iniziano con la prima modernità, dove la scienza si istituisce come una nuova religione laica e stabilisce la superiorità dell'umano rispetto alla natura, la superiorità della mente rispetto alle emozioni e dunque la superiorità dei uomini rispetto alle donne, dello Stato rispetto alla società. Sono tutti dualismi di tipo gerarchico, dove il primo termine è quello privilegiato. E dicevo, su questa democrazia radicale, sulla partecipazione delle donne, è giocata appunto sulla presa in carico attiva dell'autodifesa, dove l'autodifesa non si gioca attraverso e innanzitutto attraverso pietre o armi. L'arma più potente è quella di arrivare a una società educata e politicamente consapevole, quindi di arrivare a un'alfabetizzazione politica in modo che non sia che la decisione viene ottenuta e mantenuta attraverso le leggi e la polizia. Bisogna attraverso questa educazione combattere contro l'abitudine consolidata e diffusa su scala globale a non prendere decisioni collettive. E per educazione non intendo il conseguimento di un titolo, ma lo sviluppo della capacità di capire il mondo. Molte cose che accadono è proprio molte delle cose che accadono sono proprio dovute a questa mancanza di consapevolezza e di educazione. Democratic autonomy, locally organized and then transconnected in form of confederalism, relies on an educated, political, ethical society as the strongest weapon of self-defense. And now I want to come to practical examples. Negli ultimi anni si è cominciata a sviluppare questa alternativa allo Stato, all'organizzazione statuale, che va sotto il titolo di confederalismo democratico. È una ipotesi che a livello teorico, filosofico, politico esiste, è stata insomma sviluppata da 10-11 anni a questa parte. Nel 2009 c'è stata una prima dichiarazione che ha portato il governo turco all'arresto di oltre 10.000 persone, tra sindaci, attivisti, giornalisti e insomma popolazione originaria. Con la nascita del Rojava, che ricordo è situato nel nord della Siria, è cominciata la vera e propria realizzazione di questo progetto politico. Allora, come è strutturato? L'unità di base è la comune, quindi si tratta di un'unità che è più ridotta dal punto di vista spaziale di una municipalità, cioè di una città. Potremmo parlare di un vicinato, e questa comune è suddivisa in commissioni che trattano e decidono in materia di salute, di educazione, eccetera. Esistono anche dei gruppi separati di donne che in qualche modo danno il nulla osta su ciò che la comunità decide. Va anche detto che questa presenza attiva delle donne ha trovato forma nell'istituto della copresidenza, nel senso che ogni carica di responsabilità a qualsiasi livello è sempre duale, è presa in carico da un uomo e da una donna. Poi esistono anche dei meccanismi invece che separano e danno un particolare rilievo alle relazioni delle donne tra loro. Ad esempio, le donne possono essere votate solo da donne, in modo da impedire che ci sia una cooptazione da parte maschile di donne che potrebbero essere più mediatrici accondiscendenti, con linee non immediate interesse rispetto alle questioni che trattano le donne. Nelle corti di giustizia classe, ad esempio, quando si tratta di casi di violenza sulle donne, le donne sono le sole giudici, cioè quindi sono le sole intitolate a giudicare del caso e a dare indicazioni per provvedimenti in materia. E così si evita quello che invece in Occidente è molto diffuso, il fatto che donne soggette a episodi di violenza poi abbiano una grande difficoltà a denunciarlo, anche solo a rendere pubblico ciò che hanno subito, per via della riprovazione anche implicita che cui vanno incontro. Women are always blamed for sexual harassment, for rape, because of what they wear, what, how they talk, where they go, what time, and so on. And then they cannot go to the police and report this because the police will blame them, family will blame them, their society will blame them, stigmatize them. But in Rojava, in cases of violence against women, women make the policies, they make the decisions, and they enforce them. Quello che vi racconto, soprattutto sulla liberazione delle donne, non è stato un fatto evidente, soprattutto in una regione così patriarcale come quella del Medio Oriente, ma attraverso gli anni si è costruito un movimento delle donne molto forte, una presenza diffusa in Parlamento, nell'esercito che combatte il Daesh, nei vari ambiti economici. Vi vorrei leggere questa citazione. L'uomo è un sistema, il maschile è diventato uno stato e si è trasformato in una cultura del dominio. La classe e l'oppressione sessista si sviluppano insieme. La maschilità ha generato un genere dominante, una classe dominante, uno stato dominante. Quando un uomo viene inserito in questo contesto, è chiaro che la mascolinità va uccisa. In effetti, uccidere l'uomo dominante, il maschio dominante, è il principio cardinale del socialismo. Questo è quel che significa uccidere il potere, uccidere il dominio di una parte sull'altra, l'inuguaglianza e l'intolleranza. Più soprattutto significa uccidere il fascismo, la dittatura e il dispotismo. E questa è una frase di Abdullah Öcalan, e è stato molto significativo che sia stato un uomo a individuare la questione in questi termini, che rende l'idea che l'uomo non è il singolo uomo, è una forma di organizzazione che riguarda uomini e donne, e ha permesso di offrire un grande sostegno al movimento di liberazione delle donne, che ora ad esempio combattono effettivamente il Daesh, laddove molti governi occidentali si limitano a parlare di un contrasto al Daesh. Ma insieme a questa capacità di esporsi fisicamente, c'è tutto il progetto di cui vi parlavo, di grande presenza sociale, partecipazione sociale e di grande processo educativo. Prendere le armi non è mai un atto iniziale, è il punto di arrivo di un processo di consapevolezza politica.